Tutto a posto, frate. Epa, non ha cacato un pesce. Epa. Peppino. Peppino, Peppino. E che si fischia? Beh, ma noi, non è il cacio. Cacio? Cacio non si muore, qua. Lascia perdere che si muore. Dagli da oggi, bubu. Infatti io avevo messo, tornato a casa fresco con il stilatore, ci abbia il culo. Sono caro che si muore. In inverno in 10 casi vai un freddo di una marona che impiri la iatta. In inverno morire in casa, non si sa come ti fai oggi. Lo so. Lo giaccio. No, io mi ho fatto tutto quello che devo fare stamattina. Poi allora in ufficio, ho fatto un po' di commissione, ho detto beh, vedete, via il culo, io me ne sto alla cassa. Già preparato il sugo per pranzo e adesso me ne sto al fresco, capito mi hai? Fai qua, io lo stesso sono uscito a spiegare delle commissioni, a marzo ho controllato mezz'ora fa, sono comprato il cordo, la compisilli. Oh no, io c'ho un po' di gnocchetti al basilico, pomodorino fresco al basilico e un'insalatina, roba leggera, cazzo gordo con pigilli. No, è troppo pesante un chilo gardo. Sì, già lo mangio pure la sera, a freddo, già è buona. Beato te, Manuel, io no, non c'ho più stomaco, nel senso che no, non digerisco più come prima, capito? Quindi devo stare leggero, c'è un casino. E devo danneggiare, e devo dimagrire, il dottore mi ha detto che devo dimagrire, che cazzo dimagrire, io già devo dimagrire. Se mi viene fame, mi viene fame, cosa devo fare? Non so, problemi cazzo che questi dottori, la prima cosa è devi dimagrire, usciva di te a me, per la schiena, no? Io ho un problema grosso alla schiena. Devi dimagrire, cazzo oggi di magnicato, dei zecchini, c'ho canale al controllo, ma ancora è venerato, ma non aveva fatto, fammi diventare come un zombie. Ha detto no, già va bene così, i dolori sono abbassati, già va bene così. Però mi sto tenendo a regime sul mangiare, capito Manuel? Ma è così, ma tutti dicono così, dottore. Tutti dicono così, io stesso devo abbassare il peso, di peso perché ho anche le mie del disco, quindi romanzano non ti dico il dolore che faccio, l'hanno mentito. Perché mi prende da lombo sciatico fino a giù alle gambe. Ma dolori, cazzo pare che mi sono pulendo 31 ossa e mi sono tirenti. Ehi, è così Emanuele, vabbè, rimango un attimo in quel ricchisi che mi sto guardando una cosa un attimo al PC che devo inviare e poi già riprendo, ok, tanto sono qua Emanuele. Sì, tanto mi ha sentito anche io se un complimento, ascolta, ma a Fabio Master hai sentito Ocra? Ho capito. Hai sentito a Fabio Master? Oh no, io non sto entrando più come prima. Assolutamente, non ho più sentito nessuno, io la sera non sto più modulando, Manuel, capito? Quindi non lo so. No, ma neanche io la sera sto pensando, ragazzi, mi sono quattugliati, come esco, come non esco, questo è un microfono, un altro microfono, ma piuttosto mi guardo la televisione e sono più tranquillo. Ma infatti, ma vedo la televisione. Dai, ci aggiorniamo dopo, Manuel. Sì, ciao. Qualcuno sul canale? Ma non gli dico una puntata importante, no, non è possibile. Aggiustato, vai. Attenzione, canale 10, l'isola della Sardegna fa chiamata e si sintonizza in ascolto, bricolato. Sto ascoltando qua a vedere se c'è qualche cosa.